della sera. Erano le 5 in punto della sera. Un bambino portò il lenzuolo bianco alle 5 della sera. Una sporta di calce già pronta alle 5 della sera. Il resto era morte e solo morte alle 5 della sera. Il vento portò via i cotoni alle 5 della sera e l'ossido seminò cristallo e nickel alle 5 della sera. Già combattono la colomba e il leopardo alle 5 della sera e una coscia con un corno desolato alle 5 della sera. Cominciarono i suoni di bordone alle 5 della sera. Le campane d'arsenico ed il fumo alle 5 della sera. Negli angoli gruppi di silenzio alle 5 della sera. Solo il toro ha il cuore in alto alle 5 della sera. Quando venne il sudore di neve alle 5 della sera, quando l'arena si coperse di odio alle 5 della sera, la morte pose le uova nella ferita alle 5 della sera. Alle 5 della sera. Alle 5 in punto della sera. Una bara con ruote e il letto alle 5 della sera. Ossa e flauti suonano nelle tue orecchie alle 5 della sera. Il toro già mugghiava dalla fronte alle 5 della sera. La stanza si ridava d'agonia alle 5 della sera. Da lontano già viene la cancrena alle 5 della sera. Tromba di giglio per i verdi inguini alle 5 della sera. Le ferite bruciavano come soli alle 5 della sera. E la folla rompeva le finestre alle 5 della sera. Alle 5 della sera. Che terribili 5 della sera. Erano le 5 a tutti gli orologi. Erano le 5 nell'ombra della sera.